Eh sì, ve lo confermiamo, siamo in diretta, siamo live, benvenuti per un nuovo sabato Dinner and Dance che va le a ore 22:26 minuti. Eh sì, per essere precisi, didascalici. Dicevo, un altro sabato Dinner and Dance che va a cominciare, un altro sabato Dinner and Dance da vivere insieme. Noi siamo un po' i padroni di casa, un po' gli usceri di questo grande spazio e cerchiamo di tenervi compagnia e di farvi trascorrere qualche minuto, speriamo in allegria, speriamo bene, esatto, spensierati, ma come dicevamo, penso che la parola chiave sia veramente questa, cioè farvi compagnia, quello che cerchiamo di fare in ogni serata e quello che cerchiamo di fare nella nostra radio, nel nostro spazio radiofonico Ristoradio Convento, la web radio del nostro locale convento di Donato del Garda. Sì. Io sono Master Nick, come sempre al mio fianco in questo spazio che oserei definire a questo punto aperitivo, antipasto della serata. Dai. Noi ci ormai stiamo tradizionale, c'è il mio fido scudiero Alex Angioletti DJ. Eccomi qua, buonasera a tutti, benvenuti ancora a Ristoradio, appunto tutte le presentazioni del caso l'ho fatte sul nostro Master Nick. E noi che facciamo stasera? Ce la raccontiamo? Abbiamo qualche argomento? Poi andiamo così alla... Ma Dio, come sempre no. Il bello di questo programma, esatto, è che non c'è un programma. Non c'è un programma, esatto, non abbiamo argomenti, quindi quello che ci passa un po' per la testa, che può essere come dire un dettaglio, un'idea che può venire vedendo qualcuno passare, un'ispirazione che dà una canzone, domanda, qualsiasi cosa. Posso farti una domanda? Sì. Beh, l'argomento della settimana, perché sono stato un po' disconnesso con le ultime news. Dipende, l'argomento della settimana, cioè i telegiornali parlano sempre di brutte cose. Ok, allora vogliamo parlare qualcosa di più bello, te cosa ti verrebbe in questo momento? Ce l'ho, poi te lo racconto. Ce l'ho, una bella impresa mi viene in mente, che l'ho seguita anche direttamente in questa giornata. Un'impresa alla portata della nostra presidentissima Ivana, direi. Ah. E dopo capirai, quindi, dopo capirai. Molto live, molto viva. Molto viva, assolutamente. Perfetto. Sì, molto molto viva. Poi te la racconto, che è stata veramente una bella giornata quella di oggi in tal senso. Vi ricordiamo, prima di partire con un po' di musica, come ascoltarci. Prima di tutto il nostro sito www.ristoradio.convento.it. C'è anche un'app che potete scaricare, sempre Ristoradio Convento si chiama, oppure il nostro sito generale, principale, convento.it, anche qui l'app, sempre, che si chiama Convento, per avere in questo caso tutte le notizie che riguardano il nostro sempre locale, collegati, sempre nuovi collegati, eventi, nuovi nuovi appuntamenti e tutto eventi, il resto. Eventi. Ricordiamo quale evento del mese? L'evento del mese è chiaramente la festa di Halloween, che però ormai è praticamente qui, è qui dietro l'angolo. Sì. E anche in termini di prenotazioni mi dicevano che siamo agli sgoccioli, come sempre, tutto esaurito in queste occasioni. Ma è una festa mostruosa, devo dire. Una festa da paura. Una festa da paura. Anzi, ma come manterremo... dicono gli amici di Parma, da paura. Da paura, ma manterremo quella che è la nostra identità e quella che è il nostro leitmotiv, insomma, nel locale, cioè daremo il brutto di noi stessi. Ah, quello lo cerchiamo di dare sempre, però il divertentismo, nonostante una festa paurosa, cercheremo di divertirci e Michael di farvi Jackson divertire. Trailer per lanciare Halloween. Ci può stare. Ti lascio un attimo, dai, tergiverso un attimo con gli amici a casa. E nel frattempo, che in regia il nostro Master Nick va a cercare in archivio la musica. Bene, devo dire la verità che una risata diabolica questa settimana proprio l'ho sentita, te la volevo raccontare. Sì. Quella risata convulsiva, quella che fa così. Sei andato a vederlo? Sei andato a vederlo? Ti do il bigliettino perché non so. È una risata convulsiva. È una risata convulsiva. Va fortissimo. Ho voluto prendere esempio anche questa settimana da questo film, spunto della notte passata dentro il frigo di Joker. È bellissimo quella scena lì, Pensa che la prima recensione che ho visto e sentito di quel film è: la risata di Joaquin Phoenix vi tormenterà. Ed è una cosa che non riesce, esatto, vedi, che non riesce a uscirti dal cervello e dalle orecchie. Allora, ogni tuo desiderio è un ordine, caro mio DJ. 31 ottobre, ti sta avvicinando, vai. Il nostro archivio musicale ci regala questa perla. Mi parte la coreografia, parte la coreografia, saprai meglio di me. Uno dei video più visti della storia della musica, forse anche di YouTube, prima che arrivassero tutti i fenomeni da baraccone, ma lui è il numero uno, Michael Jackson. You start to freeze as horror. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Thriller, un grande mamma pezzo. Mamma mia, ragazzi, grande mamma pezzo. Mia. La storia della musica, assolutamente sì. Michael Jackson, per ricordare un po' quello che sarà l'evento che di questo disco, mese. Ragazzi. Che disco? Quanto varrà oggi quel disco lì? Che disco? Sì, quanto ha venduto? Un miliardo di copie. Sì, ma la copia quanto costa? Cioè, la copia quanto costerà? Non si sa. Beh, è stato il disco più venduto nella storia, quello sicuramente. I primi effetti, no? Poi eccessivamente. Sì, poi piano piano sono anche diminuite le vendite proprio dei dischi in sé. No, sono aumentate invece. No, dei vinili. Dei vinili. Sì, dei vinili, però sì, tipo i CD poi non hanno più venduto. I CD sono quelli che hanno perso tantissimo. Esatto, sì. Esatto. Comunque, vabbè, adesso stavo guardando. Eccolo qua: 110 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ancora oggi l'album più venduto di tutti i tempi. Infatti, dicevo che è stato anche fortunato perché in precedenza non si vendevano ancora gli album e si ascoltavano nella loro interezza. Guai che non ce l'aveva. Sì, caso. Adesso vanno i singoli, quindi è cambiata proprio l'industria. L'industria musicale che pensa che hanno prodotto un'industria, una linea proprio di produzione solo per il disco di Michael Jackson. È uno spettacolo incredibile. Dicevamo, allora, è cambiata anche la moda, ecco, di produrre album e di fare dischi, che adesso si lavora solo sui singoli. Ti avevo anticipato nell'intervento di apertura che avremmo parlato della notizia, secondo me, della settimana, che poi in realtà è successa questa mattina. Hai parlato prima di un'industria che ha lavorato ad hoc per la preparazione dell'album di Michael Jackson. Sì, eccomi, e c'è sia un'industria che un nutrito numero di persone che hanno lavorato insieme per un'impresa che oserei definire al limite dell'umano, anzi forse già oltre il quindi sovrumano. Oltre il Guinness. Sì, oltre il sovrumano, perché ti ho parlato prima della nostra presidentissima Ivana. Se dico Ivana, cosa ti viene in mente? Maratona, assolutamente, okay. Sì, infatti parliamo di un 34enne etiope. Keniano, perdonami. Che non può, e non è un keniano a caso, ma il campione olimpico in carica della maratona, che si chiama Eliud Kipchoge, mi perdoneranno la pronuncia, però insomma ci provo. Non ti preoccupare. Lo stesso Kipchoge detiene il record del mondo della maratona fatto un anno fa a Berlino, e ha corso in 2 ore, 1 minuto e 39 secondi. Beh, io sai cosa ho imparato di Berlino? Che è già un buon tempo. Quando sono stato a New York con l'Ivanissima, sì? Ok, ho imparato anche a distinguere la differenza, la difficoltà di un tracciato di maratona. Esatto, e questa è stata la fondamentale cosa che ha fatto sì che questa impresa sovrumana succedesse questa mattina a Vienna. Sì. E tutto è stato calcolato perché questa impresa riuscisse. Cosa è successo? Quindi ci sono state delle famose lepre, no? Al di là delle lepre, no, degli studi assolutamente fatti al centimetro, è stato tutto studiato e preparato nei minimi dettagli. Ah, quindi hanno voluto sfidare. Vienna non è stata scelta a caso, perché hanno scelto un percorso. Allora, intanto, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era fare una cosa che nessun umano era riuscito a fare, cioè correre la maratona, quindi 42 km, 195 metri, no, sotto le 2 ore. Sotto il muro delle 2 ore, che è una soglia che nessun umano riesce a raggiungere. No, a piedi, sempre usando le proprie gambe. Hanno studiato tutti i modi per riuscirci, quindi Vienna non è stata scelta a caso, perché è un percorso di 9 km circa in viali lunghissimi alberati, quindi il viale lungo non ti permette di fare curve, distrazioni e tiri dritto. Gli alberi, leggevo, che riparano dal vento, e quindi non hai anche in quel caso vento non contro. Non hai inerzia. Non hai inerzia e non hai vento contro, che al contrario ti spinge indietro. E Vienna non è stata scelta a caso anche per le condizioni climatiche. Tant'è che la respirazione, esatto, okay. E anche le condizioni climatiche della giornata, gli studiosi che hanno seguito il keniota hanno deciso a mezz'ora dalla partenza che lui sarebbe partito mezz'ora dopo. Cioè hanno aspettato all'ultimo per combinare tutte le condizioni meteorologiche migliori anche per farlo partire esattamente nel momento giusto. Okay. Oltre a questo, come hai accennato tu, ci sono stati addirittura 14 gruppi di 7 lepri. che si sono alternati. Ah, diciamo agli amici chi sono le lepri. Io l'ho imparato un pochettino appunto con questa esperienza della maratona. Praticamente le lepri sono dei corridori, dei appunto dei sportivi, dei professionisti. Sono appunto dei podisti che fanno la scia, creano una scia. Bravo. Quindi vanno avanti apposta proprio per tagliare l'aria e dare il passo, la velocità, e man mano che vanno avanti si scambiano. Esatto. In modo da prendere sempre più velocità in il minor tempo possibile, giustamente percorrendo più spazio-tempo. Certo, ecco. Ti correggo leggermente, non tanto per sempre prendere più velocità, ma non perderla. Non perderla. Cioè per mantenere quel passo. Ma a piedi... Diciamo che non si sa come mai, anch'io non ho ancora capito per quale metodo scientifico, ma si succede nel ciclismo, succede nell'auto, succede la scia, piedi. Sì. Certo. Se io corro da solo faccio un ritmo, se corro esattamente dietro di te vado più forte e sento meno la fatica. Allora, a parte che vai più forte in base a quale meccanismo stai adoperando, se sono appunto le tue leve, insomma, il muscolo, oppure le parti meccaniche, non solo una esatto. macchina. Il fatto che tu vai a tagliare l'aria, proprio il gap, esatto, quindi faccio meno fatica. Il fattore X si riduce veramente al minimo, e quindi automaticamente tu potresti essere anche risucchiato. Senza utilizzare un filo di gas, se stiamo parlando appunto dell'auto. Su questo qua mi ritrovo un attimo preparato. È interessante. Tu potresti anche lasciare il freno e l'acceleratore, e potresti anche rischiare di tamponarlo. Certo. E potresti anche arrivare anche ad accelerazioni, cioè anzi velocità di punta mai raggiunte. Sì, assolutamente. Mai raggiunte. Quindi applicate tutto quello che Alex ci ha sapientemente spiegato. Oddio. Ad un uomo. Non c'è stata solo una lepre, quindi pensa addirittura a 14 gruppi di 7. Sì. Quindi lui fondamentalmente non ha mai faticato fino a, almeno ha faticato solo, lui deve correre solo l'ultimo tre. Sì, sì, lui ha step. Faticato solo nel tenere il passo. Sì. Però non ha mai spinto oltre il dovuto. L'hanno accompagnato fino a 500 metri dal traguardo. Sì. E sono riusciti nell'impresa, perché ha tagliato il traguardo in 1 ora 59 minuti 40 secondi e 2 decimi. Sono riusciti sotto le 2 ore. Ti dirò anche di più: non solo le lepri lo seguivano, c'era anche una macchina a distanza, chiaramente di sicurezza, con una sorta un navigator. Di, immaginati, laser verde, sì. Che in base anche lì condizioni climatiche, vento, eccetera, eccetera, segnava sulla strada con un laser verde la traiettoria da seguire per essere sempre più efficace. Una PlayStation praticamente. Sì, o per farti un paragone che conosciamo tutti, la riga blu della piscina. Sì. Quindi lui aveva sempre una riga da calpestare, esatto, quindi seguiva le lepri, ma seguiva anche questa riga e sono riusciti a fare il meglio. Ti dirò di più, c'è anche un'altra condizione che può prendere, può far sì che tu possa guadagnare un po' di velocità, oppure mantenerla la velocità, oppure mantenere la resistenza. Insomma, una serie di aspetti tecnici, anche di potenza. E praticamente, se loro riuscissero, secondo me l'hanno fatto, a incanalarti all'interno di un tunnel, quindi so che possono essere anche le stesse transenne. Ah, ok. Ok, e facciamo caso c'è un pubblico molto calmo, cosa un po' difficile, ma ci può essere. Vedi i ciclisti che ogni volta vengono interrotti, anche danneggiati dagli sportivi un po' accaniti. E quindi praticamente lui lì potrebbe ulteriormente andare ancora più forte, perché ha meno attriti, meno inerzia. No, addirittura, sì. Addirittura. Per famosi chiudere, alberi, famosi sì, alberi, certo. Per chiudere, comunque, abbiamo detto tutto questo, ma come dire. In 1 ora e 50. Un'ora e 59. No, puntualizziamo anche che, sì. Però, non è ufficialmente un record del mondo, no, perché no. Va da sé che era una sorta di esibizione, non era una vera e propria gara, non c'erano avversari, sì. E lui ha palesemente, tra virgolette, barato, perché ha sfruttato delle condizioni che non possono essere preparate in una gara ufficiale. Alla maratona di New York non si possono usare le lepri. Assolutamente. No, è vietatissimo. Lui ha dichiarato che aveva in mente questa impresa, voleva riuscire per mandare un messaggio che comunque nelle condizioni giuste, con la preparazione giusta e, permettimi di dire, con lo studio giusto, perché sì. C'è stato uno studio accuratissimo, sì. Di questa giornata, ogni umano può superare i propri limiti, ma anche intesi come limiti inarrivabili, perché come dicevamo prima, nessun corridore è mai sceso sotto le 2 ore. Mi sembra che New York è 2 ore e 4. Sì, qualcosa del genere. Però in ogni caso, come dicevamo prima, non è poco. Kipchoge detiene il record attualmente a Berlino di 2 ore 1 minuto e 39 secondi. Quindi già un fenomeno. Di dai, suo. Andiamo di corsa. Complimenti a lui. Andiamo di corsa anche noi. Mi è venuto il fiatone, cavolo. Non so, sono sudato per lui. lui. Eh sì, eh sì, ti fai trasportare da queste gran belle imprese. Bravo, andiamo bravo di corsa, e lo facciamo perché abbiamo una bella canzone, come dicono quelli bravi, up tempo, cioè una bella cassa in quattro che ci fa ballare. Lei è Sigala. Battiamo con le mani. Just Got Paid. I should go up someday, cause I got bills to pay. I can't be waking up with someone else's face. Facci sognare. This month I should be saving up, but I just got paid. I'm broke but I'm balling. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I'm broke but I'm balling. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I just got paid. Nobody, lottie dottie, walk up in the party. Sports bra, sport car drive. Show up, show out, bow in, bow out. Go in, go out, so rock, we pull out. I got more diamonds, ladies be the finest. Crush grapes, we don't do the wine. Crush dinner, top spinner. Coupe mean, front grilling. Got paid, hop the G5 faded. Rope chain, shell toes, wavy like a sailboat. When you hear the hand, there you go. Montana with the funky sound, Sigala got the London sound. I should grow up, they say, stuck in my glory days. I know there's nothing wrong, it's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know that day will come, but I'm just È un bellissimo pezzo quello di Sigala insieme a Della Eire e Meghan Trainor. Ti dice qualcosa Meghan Trainor? Direi di sì. È quella che cantava. Sì, mi ero distratto un attimo. No, ci sta, ci sta. Dicevo, Meghan Trainor, la fortunatissima autrice, scrittrice, ma soprattutto interprete di I'm All About That Bass, About That Bass. È lei che si è messa insieme a queste altre due donne per questo bellissimo pezzo che, come ci piace fare ogni tanto, Just Got Paid significa sono appena stato pagato o ho appena pagato. E ci piace che non anche è una cosa proprio bella, devo dire. No, no, magari per un lavoro fatto bene, un professionista. Ah, va bene, ok. Stato pagato, o anche ho appena pagato. E dicevo, ci piace anche collegare le canzoni in qualche modo, sì, con, dare il senso. Con le notizie del mondo. E c'è una cosa che si paga parecchio, ma ne vale la pena, che è stata inaugurata da qualche settimana. Ad esempio, la gelateria. La gelateria. Non so se hai mai sognato di fare un viaggio nell'Artico, nelle terre del nord. Ma perché ha detto gelateria e poi ha detto Artico? Vedi, perché in qualche modo siamo collegati psicologicamente. È una battuta agghiacciante la tua. No, ma la verità. La verità, non mi prendi in giro. No, non ti prendi in ragazzi, giro. Voi che state ascoltando a casa non è niente, nulla di preparato. No, assolutamente. Mi ha fregato. Bravo, dai, dimmi. No, dicevo, hai mai sognato o hai mai desiderato un viaggio nell'Artico, in quei posti nordici, o sei uno più da, come la tua terra siciliana? Allora, devo essere sincero, sono curioso di andare a Copenaghen piuttosto che Norvegia, Svezia, lo so. sarà le bionde con gli occhi azzurri che... può essere, può essere un buon motivo, può essere un buon motivo. Un altro buon motivo, che è quello che sta spingendo tanti a questo tipo di turismo, sta andando forte negli ultimi mesi, è poter vedere l'aurora boreale, che è uno degli spettacoli... E non è la figlia di Eros Ramazzotti. No, assolutamente no, è uno degli spettacoli più belli e più affascinanti nella storia del mondo, sicuramente. Qual è il vero problema, uno dei grandi problemi di andare a vedere l'aurora boreale? Che non è detto che arrivi nel momento in cui tu sei là, quindi puoi essere lì tutta notte, non arriva nulla, devi andare la notte successiva, ma quella notte mentre l'aspetti fa parecchio freddo, perché le temperature... Solo parecchio. No, le temperature scendono veramente di brutto. Quindi una agenzia viaggi, chiamiamola così, del lusso, che si chiama Luxury Action, quindi specializzata in esperienze... Sì, sì, sì, però in esperienze spessore. Particolari e indimenticabili solo per facoltosi, sì. Ha fatto inaugurare questo... Perché me l'hai chiesto a me se devo andarci? Io non mica sono facoltoso. No, magari ti piace, però puoi mettere via i soldi. Ma ciao. Ne devi mettere via tanti, preparati. Poi ti dico. Allora, dicevo, ha preparato e inaugurato questo hotel, sì. Che si chiama Nord Pool Igloos Hotel, che nient'altro vuol dire che un igloo vero e proprio, una sorta di campana di vetro, vediamola, sì, così, okay. Mezzo trasparente? Sì, o praticamente quello che circonda i carillon, per farti capire, sì. E quindi tutto di vetro, completamente riscaldato, completamente dotato, abitabilissimo, di ogni tipo di comfort, abitabilissimo, perché risolve il problema di tutti quelli che non riescono ad andare a vedere l'aurora boreale, perché tu stai al calduccio, coperto nella tua, ecco, igloo, e col vetro sopra ovviamente vedi tutto quello che puoi vedere dal cielo. Comodo, comodo riscaldato. Esatto. Fuori meno 50. Devi solo essere fortunato di beccare la sera giusta, perché se la becchi all'interno di un igloo riscaldato e ti vede l'aurora boreale lì, allora, direi che è un bello spettacolo. Allora, master, io ho un amico da mandare lì, fino all'igloo. Fino a lì. Sì. Un amico, si chiama Davide Il Torre. Allora, digli di tenersi libero, di segnarsi in agenda il periodo di aprile, perché in aprile succede tutto questo, o meglio, c'è la più alta probabilità di andare a vedere l'aurora boreale. Allora, ce lo mandiamo, Davide? Ce lo mandiamo, però non dirgli solo di tenersi libero ad aprile, sì. Digli anche di mettere via, te lo dico? Sì, dimmi, quanti, sei sicuro? Quanti migliaia di però, euro? Però tieniti al tavolo. Oddio. 90.000. 90.000 euro, vai Davide, ce la puoi fare. Ma aspetta, quante saranno 90.000, 90.000, cosa succede? Hai una notte in hotel. Una notte? Una notte in hotel, assolutamente. Due notti di soggiorno nel paese, insomma, sì. Nel paese che ti ospita. Volo. L'aperitivo ci sta? Non lo so, no, non è compreso. Volo e logistica per arrivare, sì, chiaramente dall'aeroporto, sì, alla zona del Polo che Nord. Che carini che sono. E basta. Ah, basta, tutto qui. No, beh, scusa, ci sono anche pasti e guide comprese. Ah, ok. Però sta di fatto che per una notte e due giorni paghi 90.000 euro. 90.000 euro, è sì, veramente sì, per facoltosi. Per facoltosi. Però ci sono degli appassionati, come dicevo. Adesso... è un turismo che va molto, come l'ha lanciato sempre quello di Virgin, se non mi sbaglio, il viaggio su Marte. Anche lì per pochissimi. Ad Astra. No, la stanno preparando per portare gli uomini a fare una sorta di vacanza. Ma sai su quanta Marte? Gente ce le mandi durante la settimana? Sì, però Marte. Poi ci vuole. Se ci vogliono andare davvero, purtroppo devono tirar fuori parecchi soldi. Allora, volevo un attimo strappare un minuto per salutare un amico che ci sta ascoltando. È confermato in ascolto del Ristoradio con me, te, Davide Il Torre. Che quindi ha deciso di partire per la Groenlandia. Ah, no, ma lui ci fa sognare con il suo sax. Ah, bravissimo. Beh, allora lo aspettiamo ad esibirsi da noi. Hai visto? Ecco, lo aspettiamo, detto lo fatto. Aspettiamo. Vediamo se ci conferma. Vediamo. Tu velocemente, dimmi. Se potessi, sì, non considerare la spesa, le ore di volo e tutto il resto, che destinazione sceglieresti per il tuo viaggio della vita? Ripeto, senza limiti di budget e con tutto disponibile. Oddio, non lo so, sai, mi spiazzi. Però c'è un... Allora, rigiro la domanda. Un posto da sogno che vorresti vedere, ma che magari non ti puoi permettere, o che non vai perché chiaramente le finanze sono troppo alte, però sì, togliamo l'aspetto finanziario ed economico. Veramente mi spiazzi. Non dovrei prendere un attimo la cartina e... Allora, fai così, scaricati un'app che con un su mappamondo. Intanto ci sentiamo un bellissimo remix di un grande successo di Lord, il più bello, Green Light, e poi mi dici dove vuoi andare. She thinks you love the beach, you're such a damn liar.